Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buona mattinata, cari ascoltatori di Radio 24. Ci vado un po' giù col tono perché immagino che molti di voi stanno dormendo, altri invece magari stanno lavorando da moltissime ore o stanno in piovosissime strade italiane. Comunque, ecco, nuova puntata ruggente dei Conti della Belva. Siamo arrivati al terzo appuntamento e quindi tutta la banda dei compari qua vi saluta. Naturalmente io, Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Francesca Del Rosso. Ora vi dirò che in questa giornata vi abbiamo preparato una puntatina di quelle che vi mandano per traverso un po' la giornata. Lo dico non perché abbiate problemi digestivi, ma perché questa puntata è una puntata nella quale la belva è pronta a strapparvi un altro bel po' di soldini. Quindi io vi riepilogo i temi che trattiamo oggi per darvi l'idea se volete telefonare. Li trovate tutti se andate sul sito di Radio 24, programmi Conti della Belva. Lì ci sono solo i temi che adesso vi riepilogo, ma ci sono anche i documenti di cui parleremo oggi. Di cosa parliamo? Noi facciamo una radio da parlare, ma anche una radio, esatto, da leggere e una radio da scrivere, no? Esattamente. Ammappate. E vabbè, ragazzi, noi siamo multimodali. Mamma siamo multitasking. Vabbè, in più modi tentiamo di difenderci dalla belva che ci vuole levarci i soldi. Temi di oggi. Allora, iniziamo con il divorzio breve. Che cos'è questo divorzio breve? Lo vedremo tra poco. E soprattutto la domanda è: ma non è che c'è il rischio di rimetterci parecchi soldini per chi è più debole dei coniugi? Vedremo. Poi una serie della serie Il terrore fiscale, tutto un bel po' di questioni che ci arrivano tra capo e collo, caro Carlo Alberto. Perché l'Italia è una repubblica fondata sul terrore fiscale. Le tasse non sono mica un patto sui cittadini, sono una feroce imboscata della belva. Esattamente, questo naturalmente noi siamo minoritari perché ci dicono che a dire così noi violiamo un patto. Il patto lo viola solo lo Stato belva, è chiaro? Poi dice no, ci sono anche... Certo, però lui intanto se ne inventa un al giorno. Quindi di cosa parleremo oggi? Vedremo di approfondire questo nuovo regime dei minimi che è in arrivo, che è una roba con una patente incostituzionalità. Vedremo il nuovo regime in legge di stabilità rispetto al vecchio che era il 5% per una certa fascia d'età e di aliquota del 5% e per una certa durata di tempo. Adesso invece si fa un pastrocchio naturalmente al 15%, però vedremo quello. Poi vedremo il problema del 730 precompilato, fidarsi o meno, ma vedremo il problema delle nuove clausole di salvaguardia, anche se non si chiamano più così, insomma i 30 miliardi di IVA e accise in arrivo tra 2016 e 2017. Intanto però l'aumento dell'accisa della benzina, che quello parte da subito a gennaio, quindi fatevi i vostri conti. Dice ma come, il prezzo del petrolio scende, la benzina scende, appunto lo Stato lo fa risalire e parleremo anche di quello. Dopodiché alla fine anche il rincaro dell'olio, 40% in più in arrivo dicono i giornali. Allora questo è il tema per vedere se volete telefonare 800 24 00 24, lo spirito della trasmissione, suonate la carica. Bene, speriamo di non finirci noi sotto gli zoccoli dei cavalli. Il tema da cui cominciamo è questo del divorzio breve. Allora, Francesca Del Rosso, che innanzitutto ci nobilita in quanto donna in questo studio di maschiacci terrificante, e poi perché noi dobbiamo avere un'attenzione particolare per i conti dei più deboli. Non dimenticate mai, le donne, come abbiamo visto, sono, per come abbiamo organizzato questa società, insieme ai bambini e agli anziani, i deboli nella nostra società, chiaro questo? Allora, che cosa diavolo è questo divorzio breve che diventa legge? Allora, innanzitutto tutti i media, divorzio fai da te, divorzio breve, brevissimo, eccetera, appunto è giusto fare chiarezza perché accanto alla procedura che è già in vigore per la separazione dei divorzi, che prevede quindi il passaggio in tribunale, da oggi c'è questo decreto 132 che è stato convertito in legge, che prevede che due coniugi possono fare la separazione, il divorzio, la modifica delle condizioni di divorzio davanti ad un sindaco con l'assistenza facoltativa, quindi potrebbero non usare nemmeno gli avvocati, e per farlo però devono esserci alcune condizioni. Queste condizioni... Prima chiarezza, per chi non avesse conosciuto la legge, vi dicono breve, i politici come sempre raccontano, perché i tempi in realtà della separazione e del divorzio restano uguali a prima, praticamente non uguali. C'è l'annullamento in caso del tempo previsto come in Francia, che può essere immediato se c'è la cosa, non c'è. Non ci sono i due anni come in Germania, resta tutto come prima. Devono breve, comunque, dimenticato, ecco, è un'altra procedura. Devono comunque passare i 3 anni dalla separazione al divorzio, questo comunque. Allora, per farlo, quindi per non usare gli avvocati, quindi se vogliamo anche risparmiare un pochino, forse non devono esserci una serie di condizioni: figli minorenni, figli gravemente handicappati, figli maggiorenni ma non autosufficienti o trasferimenti patrimoniali. Se sussistono tutte queste condizioni, Meloni. Ci va da giudice. Si può inviare, no, si invia l'accordo dei coniugi al se no, scusami, se non ci sono tutte queste condizioni, quindi figli minorenni, eccetera, eccetera. Possiamo andare dal sindaco che non prima di 30 giorni chiama i coniugi a firmare questo accordo, da quel momento è esecutivo. E allora uno direbbe, legge ben fatta, perché questa... se ci sono i figli minori eccetera vado al giudice, mentre invece se non ci sono si può fare, è tutelato. Esatto, invece no, perché c'è una seconda parte di questa legge che dice invece, se invece i coniugi hanno figli minorenni con handicap gravi, maggiorenni non autosufficienti o trasferimenti patrimoniali, e su questo si dovrebbe aprire un approfondimento, si possono avvalere della negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. Quindi raggiungono l'accordo attraverso l'assistenza degli avvocati. Questo accordo viene trasmesso alla procura e non più al giudice, che lo ratifica, e a quel punto viene passato al comune, eccetera, eccetera. A quel punto poi diviene esecutivo. Questo cosa significa? Innanzitutto che vuol dire che devi avere un'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte. Quindi significa che a casa mia, l'italiano, significa che ne devi avere due. Io penso che questo rischio ci sia un rischio molto forte, che secondo me i coniugi più deboli, facciamo finta di dire che è uguale il rischio tra maschi e donne e femmine, però con un accordo di questo tipo ci si siamo d'accordo, però soggiaccia a chi ha l'avvocato più forte e più caro. Questo secondo me li conoscerò tutti io i casi di separazione a forte litigiosità, può essere, non credo, secondo me questa roba nella legge non è ben considerata, perché si dice sgridiamo lo Stato, mettetevi d'accordo voi. Però io temo molto che questa roba porti a uno stato di insufficiente tutela, per così dire. A parte che sgraviamo lo Stato, bisogna vedere, perché comunque stiamo andando dalla procura e non dal giudice, quindi le procure adesso saranno affollatissime di questi procedimenti, dai sindaci che comunque avranno una marea di accordi da firmare e vagliare, quindi insomma non è che la burocrazia necessariamente diminuisce. Allora, adesso sentiamo anche che pensano Mario e Carlo Alberto. Intanto tu hai fatto delle interviste. Sì, e quindi ne sentiamo una interessante. Io sono divorziata da 30 anni, ricordo la lungaggine della situazione, l'attesa e soprattutto la spesa, che non è stata assolutamente indifferente. Questa proposta mi sembra molto interessante, specialmente anche dal lato economico, solo che è riservata a pochi eletti, a chi non ha figli, chi non ha divisioni patrimoniali, eccetera. Perciò il numero delle persone che può usufruire di questa situazione è davvero, secondo me, esiguo. Si rivolge soprattutto ai giovani che affrontano il matrimonio con leggerezza per poi pentirsene poco dopo. Ma tuo marito poi è andato in una sua casa, cioè qual è stata poi la vostra situazione immobiliare? Situazione immobiliare è semplice, io ero in affitto e sono rimasta nella casa in affitto con mia figlia. Certamente il mio ex marito ha dovuto subire il problema di un altro affitto ed è finito in una casa ammobiliata. Questo è purtroppo la soluzione che al tempi c'era. Oggi c'è più difficoltà a trovare sistemazioni e le spese sono decisamente superiori a quelle di una volta. Ora vedremo che questo aspetto, cioè l'aspetto in Italia, non è solo considerato molto caro sposarsi, separarsi è considerato ancora più caro, come in Italia è considerato caro i figli, fare figli, in Italia è considerato più caro fare praticamente tutto, però di questo, cioè dell'impatto che i costi hanno nelle cifre, nelle statistiche, nei redditi e nelle proprietà di chi si separa di divorziare in Italia, parleremo tra 60 secondi, perché intanto adesso abbiamo strade. Della belva. Allora, eccoci tornati qua in studio con Oscar, Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminario, Francesca Del Rosso. Siamo partiti oggi questa terza puntata dei Conti della Belva da questa nuova legge sul cosiddetto divorzio breve. In realtà i tempi restano uguali, come abbiamo visto cambiano le procedure a seconda di alcune condizioni, Francesca. Sì, e poi appunto diciamo innanzitutto che praticamente questa riforma va a colpire o ad agevolare solamente circa il 10% delle persone che si separano. Cioè

Allora, eccoci qui tornati in studio. Intanto Francesca Rossa, la nostra nobilitatrice, ci saluta. E... io vi saluto perché devo andare a fare matematica con i miei figli. Anche tu, l'interesse sono... composto. L'interesse no, mi interessa molto invece il tutorial dei conti della belva, perché... se vuoi Francesca, facciamo una tabellina Excel, io e Mario, lui ci mette gli interessi, io ci metto le formule, perché bisogna imparare a farseli i conti con la propria di belva domestica. Esatto. Assolutamente, bisogna anche saper fare... ho fatto anche liceo scientifico, ma mi impegno, se voi mi mettete la tabellina Excel, io mi impegno, grazie. Bravo, grazie. Ciao, ragazzi. Ci sentiamo sabato prossimo e adesso andiamo di qui in poi per un bel po' di blocchi della serie Terrore Fiscale. Non so se, scusate, questo mi piacerebbe che fosse la reazione dei contribuenti che invece subiscono. Risentiamo un po' cosa dovreste imparare a fare di fronte a... urlare, ecco, questa è un po' una cosa. Dice no, ma come sei liberale? No, i liberali protestano perché hanno il senso di sé e del proprio portafoglio. Allora cominciamo con questa, per la serie che dura parecchi blocchetti, cominciamo col nuovo regime dei minimi. Mario, ci vuoi spiegare la sorpresa del nuovo regime dei minimi? Allora, premesso che io diciamo lo orecchio da fuori questo concetto, però pare che appunto il governo abbia deciso di riformare la materia sotto il principio generale di estenderlo a tutti, almeno questo è quello che le fonti ufficiali reiterano ossessivamente quando si chiede loro anche che ora è. La verità è che è stato introdotto, diciamo, nella prima bozza un concetto molto bizzarro, cioè si sono identificate determinate categorie di lavoratori autonomi a cui sono stati assegnati dei ricavi, diciamo a prescindere probabilmente determinati da una qualche ispirazione, da qualche seduta spiritica, e questi, su questi ricavi si applicano aliquote che peraltro sono più alte rispetto al regime attuale, quasi il triplo, bisogna... siamo parlando di quasi il triplo. Il vecchio regime dei minimi era il 5% di aliquota, era per i giovani e non potevi beneficiare per un certo numero di anni. Adesso il governo dice attenzione verso tutte le partite IVA, gli autonomi ai quali non abbiamo dato gli 80 euro, bla bla bla, noi vi facciamo un enorme intervento a vostro favore, cioè vi triplichiamo l'aliquota dal 5 al 15%. Così imparate. Stabiliamo noi per tipologia professionale qual è la soglia di reddito alla quale applichiamo in maniera diversa da ciascuno di voi il 15% di aliquota, e stabiliamo anche il coefficiente diverso per applicarvelo, ecco, e tutto questo lo presentano come il grande atto di attenzione verso il mondo delle autonome partite. È tutto una questo violazione. Sostituisce forfettoni, tutti i regimi di vantaggio che c'erano prima. Che ne dici, caro Albert? Dico che è una violazione sistematica, clamorosa, di almeno tre principi costituzionali. Il primo, quello che dice tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e invece qui lo Stato stabilisce lui, esatto, ex ante, a prescindere, esatto, no, il tuo reddito e i coefficienti. Peraltro lo fa discriminando per tipo di lavoro, no? Per cui c'è un codice attivo che stabilisce se tu guadagni tanto o guadagni poco, quando decenni di ricerche economiche dimostrano che non c'è una correlazione. I codici Ateco si usano dal punto di vista statistico pubblico, sono condivisi a livello europeo eccetera, per studiare l'evoluzione per tipologie, esatto. Qua invece diventano criteri discrezionali, esatto, fiscali di aliquota. Ladri! Studi di settore ex ante, esatto, diciamo. Studi di settore ex ante, proprio a prescindere. E il codice di questa roba nostra, che facciamo i conti non con la belva ma con le tendenze, la redditività, la composizione organizzativa, invece diventano, come dire, reddito presuntivo semplicemente attribuito a una categoria professionale. Seconda fondamentale violazione della Costituzione: sistema tributario è informato a criteri di progressività. Ma che stiamo parlando, in cui il sistema tributario è informato a criteri persecuzione e spara indiscriminatamente nel mucchio. Perché poi questa è la determinazione di fantasia delle basi imponibili, esatto, che è praticamente il grande filone del fisco italiano da qualche tempo a questa parte, che si sta accentuando. Cioè, certo, lo Stato ti dice qual è a suo giudizio la tua base imponibile e su quella graziosamente in caso ti applica un'aliquota di favore che favore non è. Quindi qui stiamo prendendo una pessima piega. Partiamo sapendo sicuramente che tasse dobbiamo pagare. Dopodiché il reddito è una variabile dipendente. La base imponibile dipende se sei stato buono o meno. Invertiamo il rapporto, cioè, esatto, le tasse sono una variabile indipendente e fissa, no, nell'universo. Magari il reddito residuale, capisci? Siamo la certezza dell'arbitrio, diciamo. La certezza dell'arbitrio. Vogliamo leggere le tipologie di attività e tattile, giusto per far capire le variazioni assurde. Se sei un professionista, al massimo 15.000 euro. Se invece sei, che ne so io, un commerciante all'ingrosso, 40.000 euro. Se sei un professionista, coefficiente 78%. Se sei uno del settore industria alimentare, 40%. Capisci che siamo... Da dove vengono queste cose? È una lotteria della discrezionalità. La base scientifica, tradotta brutalmente, la dico io, il peso che ciascuna di queste componenti ha nei confronti del partito di maggioranza del governo! Questo è il punto! Perché la discrezionalità, la politica, caro Alberto, la sceglie per questo! Chi ha più voti e pesa di più? Chi è più vicino al giglio magico? Questo è! Come Pieri, come ieri, per anni era chi è più vicino al culo di Berlusconi. Il criterio è sempre quello nell'Italia dei grandi principi e della patria del diritto. Io comunque sono qua che aspetto i dati statistici. Vediamoli. Intanto però si direbbe, no, sempre bravi a criticare, però in cambio voi che proponete? Abbiamo una propostina, noi abbiamo postato sul sito della trasmissione, andate a vederla, al di là delle nostre chiacchiere un po', perché dobbiamo essere brevi, e abbiamo con noi l'autore di una proposta nella cui filosofia ci riconosciamo, l'avvocato Giorgio Infranco. Buongiorno e grazie di essere con noi, avvocato. Buongiorno a voi. Allora, ci spiega invece come funzionerebbe una proposta alternativa un po' parecchio, anzi più seria, di questo criterio discrezionale a piffero? Allora sì, sostanzialmente, come già avete anticipato voi, questo regime rappresenta in realtà l'ennesima vendita di qualcosa per qualcos'altro, quindi che si colloca perfettamente nell'ambito delle disposizioni del DDL Stabilità 2015. Io ho provato a paragonare questo nuovo sistema a un'autovettura, no? Un'autovettura che il governo ci dice di essere bellissima, costata addirittura 800 milioni di euro, poi se avremo tempo possiamo anche andare a vedere come sono distribuite queste somme, poi andando a esaminare questa autovettura si scopre che in primo luogo ha le portiere troppo piccole, no? Talmente piccole che sostanzialmente inibiscono l'accesso e quindi lo rende di fatto inutilizzabile, questo da un lato, e quindi limite dei professionisti per esempio, e dall'altro un consumo talmente elevato che la molteplicità di casi ha comunque meglio utilizzare le modalità di spostamento cui facevo ricorso prima. E quindi questo intento programmato di allargare questo regime in realtà finisce con restringere. E tra questi limiti, quindi i limiti dei professionisti che già avete anticipato benissimo voi, quindi le portiere piccole con ulteriore conseguenza a danno questa volta anche dello Stato stesso. Perché se io entro in questa macchina dalle portiere piccole, poi faccio di tutto per rimanerci. Quindi qual è la conseguenza, l'effetto distorsivo? L'aumento del sommerso. Quindi lo Stato non solo flagella, ma si autoflagella. Cioè io sto nella soglia che discrezionalmente lo Stato mi ha dato per coefficiente per togliere il tetto di reddito e lì beneficio al massimo e ufficialmente resto in quei criteri e poi fuori ovviamente mi faccio il resto. Esatto. Evasione fiscale di Stato. Appunto. E invece, secondo lei, come si potrebbe fare? Avrei appunto pensato una soluzione che sarebbe quella di immaginare un sistema progressivo, come appunto la nostra Costituzione impone, basato su una soglia innanzitutto di ricavi maggiore di quella attuale, perché anche quello, cioè la riforma era opportuno farla, ma prevedendo, andando per le esigenze del Paese, che è quello di crescita, no? Quindi sappiamo che il Consiglio UE ha dato la possibilità all'Italia di aumentare la soglia di esclusione dall'IVA fino a 65.000. È vero che 65.000 con l'aliquota attuale del 5 sarebbe stato eccessivo, esatto. Ma prevedere un sistema di tipo progressivo sarebbe stato opportuno. E quindi cosa avevo pensato? Innanzitutto di tornare al reddito imponibile secondo la disciplina attualmente in essere e non secondo questi coefficienti redditività, perché questi coefficienti redditività sostanzialmente mi equiparano situazioni sulla base della stessa professione, ma che sono indice di una diversa capacità contributiva. Esatto. Perché prendiamo un professionista, ha un reddito con ricavi di 10.000 euro, applichiamo questo famoso coefficiente del 78%, reddito imponibile è 7.800. Un professionista che ha sostenuto determinate spese e un professionista che invece queste spese non l'ha sostenuto sono equiparati, quindi non sono in esatto. La capacità contributiva. Allora, esatto. Avevo pensato sostanzialmente di prevedere tre aliquote diverse, quindi pari o inferiore a 15.000, un imposto sostitutivo pari al 5%, tra 15 e 30 e il 10 e tra 30.000 e 45.000, quindi aumentando i ricavi, e questo è buono sia per le crescite del paese sia anche per evitare anche qui, per ridurre al minimo ecco il sommerso. Cioè una cosa è dire superate la soglia dei ricavi, vi siete a 15.000, devi passare al più oneroso regime ordinario, un'altra sarebbe dire man mano che cresci paghi qualcosa in più fino alla soglia massima di reddito pari a 45.000, dove diciamo adesso puoi andare nel famoso appunto regime, nel regime ordinario. Allora, attenzione, qui ovviamente entriamo in una materia un po' tecnica, perché tocca dirlo, nel senso che la gente non ha per niente chiaro quale sia la proporzione sul totale dei lavoratori autonomi, professionisti e microimprese italiane, la percentuale di chi sta in contabilità ordinaria e in contabilità semplificata. Anzi, la gente non ha la minima idea in che cosa consista la distinzione. Tenete conto, lo dico per chi è a casa, che mentre il nostro Stato continua a ragionare come se praticamente quasi l'universo delle piccole società, delle società professionali, individuali, degli studi e così via, sia in contabilità ordinaria ci sta molto meno del 10% dei 4.150.000 soggetti che sono la piccola e microimpresa italiana. Meno del 10%, cioè la regolarità da noi è la contabilità semplificata. Per questo regimi come questi, cioè regimi semplificati per i professionisti e i lavoratori autonomi, hanno un fondamentale impatto per la crescita, perché stiamo parlando di una stragrande maggioranza del paese, non della minoranza. Che dice, sì, caro Alberto? Che è qui che il governo impatta arbitrariamente, unilateralmente, sul reddito e sulle tasse da pagare del 90% della classe dei lavoratori autonomi. È una roba con impatto devastante, basata su principi di assoluta arbitrarietà. Il tetto di reddito fisso, invece che variabile, come diceva correttamente l'avvocato, e questo coefficiente cervellotico e completamente scorrelato da dati statistici e storici, sono interventi dirigistici veramente inaccettabili. Allora, noi adesso abbiamo strade, quindi ringraziamo intanto l'avvocato Giorgio Infranca per essere stato con noi e averci dato il illuminato contributo. Trovate la proposta proporzionale per reddito in crescita, invece di questo delirio che propone il governo, sul sito della trasmissione. Andate al sito Radio 24, programmi, Conti della Belva, e li trovate su I Conti della Belva di oggi, insieme a tutti gli altri documenti. Strada! Della Belva. Eccoci qui, tornate in diretta, ecco, continuiamo con i nostri blocchetti della serie Terrore Fiscale. Eccoci, in questo blocchetto parliamo di questa notizia positiva, spacciata come una grande semplificazione, del 730 preconfilato, caro Alberto. Eh sì, lo Stato fa i conti lui e basta che facciamo un clic e paghiamo. Però c'è il piccolo problema che lo Stato fa i conti lui, però le sue banche date pubbliche, come sappiamo, non si parlano tra loro, e del 730 precompilato degli errori e le relative sanzioni restano in capo ai commercialisti. E questo è il bellissimo trucco, no? Lo Stato non ha i dati, quindi impone a banche e commercialisti di compilarli, quindi dice: adesso i dati me li date voi e se sono sbagliati pagate voi. E questa è la più grande, come dire, grassazione organizzata per l'anno prossimo dal fisco italiano. Oh, noi stiamo iniziando ad avere una raffica di reazioni dei renzisti, perché arrivano vergogne, Giannino stai zitto, naturalmente stai facendo la cosa per l'evasione del canone, cioè secondo voi è giusto pagare il canone in bolletta elettrica, compresi gli smartphone, i PC eccetera? Fate quello che volete, continuerò a dire che siete degli stalinisti, non so cosa dire. Cioè, il servizio pubblico della RAI non è possibile da anni modificarlo, e all'inseguimento da anni di un non troppo bel sistema commerciale della televisione non abbiamo neanche la separazione di un vero servizio pubblico all'interno della RAI, che resta al servizio dei partiti, e voi gioite al fatto che si pagherà con la bolletta elettrica? Fatelo, io non lo farò e continuo a pensare che sia, non è un caso, no? Se una roba così c'è solo in Italia, poi fate come volete. Comunque, noi adesso parliamo del 7.30 e ne parliamo con, anche in questo caso, per tentare di capire che cosa succederà con qualcuno la cui proposta trovate sul nostro sito. E con noi qui, lo ringrazio, Luca Grossi. Sì, buongiorno a tutti. Allora, cosa succede secondo lei con questi 7.30 precompilati? Quali sono i problemi? Come si potrebbe fare diversamente? Allora, la questione non è così semplice come un decreto sulle semplificazioni vorrebbe far invece pensare. Innanzitutto c'è una contraddizione nel decreto stesso, perché il decreto dice che a decorrere dal 2015 in via sperimentale l'Agenzia delle Entrate predisporrà questi 730 precompilati. In realtà di sperimentale non c'è un bel niente, perché le sanzioni, gli obblighi e le attività che tutti gli operatori dovranno porre in essere ci sono e saranno anche pesanti. Quindi c'è già un qualcosa che non quadra, perché se una norma è sperimentale non capisco perché si debbano applicare sanzioni e deve funzionare come se fosse già regime. Il problema principale però qual è? è che la semplificazione, a mio modo di vedere, e questo è quello che ho scritto anche su, dove ho fatto una serie di riflessioni e le ho buttate giù quasi d'impulso, perché secondo me in questa situazione non ci guadagnerà nessuno se non l'amministrazione finanziaria. Perché? Ce lo spieghi. Nel senso che, allora, per il contribuente la vera semplificazione avverrà nel momento in cui si collegherà nel sito dell'Agenzia delle Entrate, si accrediterà, e già questo creerà dei problemi chiaramente. Nel momento in cui accede alla sua area riservata e trova completi tutti i dati in termini di redditi, lavoro, quindi da lavoro dipendente, ma anche da collaborazioni occasionali eventualmente fatti, più tutte le spese che può portare in detrazione in dichiarazione dei redditi. Tenuto conto che nel 2004, nel 2015, ma secondo me andremo nel 2016-2017, queste spese non ci saranno, perché ad esempio la dichiarazione del 2014 c'è dentro soltanto interessi passivi sui mutui, riscatti, contributi previdenziali, ma manca tutta una serie. Quindi mancheranno una serie di cose fondamentali. Io purtroppo devo ringraziarle, rinviare i nostri ascoltatori, dobbiamo imparare che nelle scalette non ci va tutto quello che immaginiamo, a quello che Luca Grossi articola, trovato sul sito della trasmissione Mi Stanno Tagliando, quindi a tra poco. Della belva. Ed eccoci qui tornati in diretta, quindi continuiamo i conti della belva con i nostri blocchetti sul terrore fiscale. E però prima di chiudere definitivamente l'ultimo, che è stato un po' troppo breve, quello sul 7.30 precompilato, rifacciamo secondo il punto, Carlo Alberto. Sì, perché ancora una volta il governo usa una nomenclatura fuorviante. Abbiamo parlato di divorzio breve, che di breve non ha nulla, anzi qualcosa di liberale. Qui stiamo parlando di 7.30 precompilato, quando, fammi dire una cosa, Oscar, i dati non si compilano, si estraggono da una base dati elettronica, siamo al 2014. Invece no, lo Stato cosa fa? Sta scaricando su professionisti e banche il costo della compilazione, cioè della popolazione di questa base dati, scaricando su di loro anche il rischio degli errori. Quindi cosa succederà? Il 7.30 precompilato, che è pure una buona cosa, e io sono qui invece, fammi fare una distinzione, per fortuna abbiamo un governo un po' più giovane che ha voglia di mettere un po' di digitale nel sangue degli italiani, fammelo difendere almeno nelle intenzioni. Il fine è eccellente e condivisibile, purtroppo il mezzo è devastante. Costerà di più il 7.30 precompilato, perché dovremo pagarci la polizza assicurativa dei poveri professionisti che sono costretti a fare il lavoro che lo Stato non ha fatto. Ha ragione Luca Grossi, di cui vi consiglio di leggere il bellissimo post che seguirò su Twitter. Abbiamo costruito la casa fiscale partendo dal tetto del 7.30 precompilato invece che dalle fondamenta della semplificazione e della popolazione delle banche dati. Allora, caro Alberto, perché qui è fondamentale avere una pluralità di voci. Allora, se io devo credere alle banche date pubbliche e al principio dell'esternalizzazione che i privati fanno a proprie spese, come in questo caso, di cui restano civilmente e penalmente responsabili, io vorrei vedere uno Stato, per esempio, in cui le tre banche dati che vado a citare, di cui mi sono occupato due settimane fa, quelle del Comune di Milano, quelle dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia e quelle della Motorizzazione Civile, siccome ciascuna di queste tre, nello chiedersi i dati, che, visto che i loro sistemi non sono connessi, chiedono a ciascuna delle altre, tutte pubbliche, di pagare, allora questo è il sistema del quale io a quel punto, come contribuente, devo dire no, tu è il sistema di cui, se questo è il sistema di cui mi fiderò, io non mi fiderò, no? Ma non perché sono antistatualista, perché un altro Stato che non avesse le banche pubbliche, che per scambiarsi tra loro i dati dovrebbero essere connesse, non dovrebbe chiedere invece soldi dalle tasche mie perché loro tra loro si pagano. No, funzionano così, io mi posso fidare di questi. Mario, tu ti fiderai? Ma direi di no, cioè ci sarà un'interconnessione posticcia con un robusto puntello privato e tutti gli oneri ricadranno in testa ai soliti noti, diciamo. Speriamo di sbagliare poi, Carlo Alberto, perché è ovvio che noi vogliamo tutti un futuro, però... No, no, non sbagliamo, perché i costi di popolazione in database sono noti e sono chiari, quindi se non sono chiari i rischi, dovremo tutti cautelarci, e quindi nel breve aumentano i costi di polizza assicurativa e anche i livelli di incertezza. Bravo. Perché è chiaro che qualche errore ci sarà e quindi non sapremo quante tasse paghiamo. Siamo di nuovo anche nel terrore fiscale digitale. Ah, oh, è bravo, sono d'accordo. Allora aggiungiamoci su questo, in questo blocchetto, e qui lascio la parola a voi perché io ho già urlato abbastanza oggi, questa cosa. La mia domanda è: come si fa a sperare che un paese si riprenda se tu gli dici nella legge di stabilità nel 2016-2018 ti riservo 30 miliardi di aumenti di accise, IVA, eccetera? Forse Mario pensano che siccome in questo anno consumerete tutto per la paura delle staggate fiscale che vi diciamo arriva tra 2-3 anni, funziona così? No, infatti questa è una cosa che mi preoccupa e mi angoscia e mi fa anche sorridere al contempo, perché se quest'anno noi abbiamo uno psicodramma collettivo per 4 miliardi di tagli alle regioni, e io lo dico perché questa settimana diciamo mi sono misurato con un importante governatore del nord a riguardo in televisione, Chiamparino, in televisione col governatore Chiamparino, ascolta, andate sul sito, perché Mario, andate sul sito fastidio.net, troverete l'audio della trasmissione della 7 3 mattine fa, nel quale il sindaco di Torino, io sono torinese, gli voglio anche bene, l'ex sindaco, presidente della regione oggi Chiamparino, mentre la giunta ha deliberato, c'è su tutti i giornali e tutte le agenzie, un aumento IRPEF, solo IRPEF per 73 milioni, poi si arriva a 100 con altri aumenti, si arriva a 100 col bollino blu per le fasce di reddito sopra i 28.000, esatto, in televisione, quando Mario Seminario glielo dice no, è sopra i 50.000, ma se hanno deliberato sopra altri schifosi ricchi comunque, quelli sopra i 50.000 meritano di morire, ti diciamo. Ho interrotto, quindi, ma perché vale la pena di riflettere? No, sicuramente, a parte che poi c'è questa neolingua, no? Mi volevo ricondurre a quello che diceva prima Carlo Alberto, cioè, ma questo è un onere minimo, sono 100 euro all'anno in più, 100 euro che cosa sono? Due caffè, rinunciate a due caffè alla settimana, ora solo che a furia di rinunciare al caffè, i bar chiudono, esatto. Noi saremo probabilmente meno nervosi o forse più depressi, che è complementare, ma esatto. Poi i bar chiudono. Per tornare al punto specifico, per 4 miliardi di taglio sulle regioni, che spergiurano non sarà lineare, ma voglio vedere, quando noi dal 2016 avremo 12,4 miliardi di clausole di salvaguardia che non si possono definire tali e saliranno a 30 miliardi nel 2018, la mia domanda è una sola: di cosa stiamo parlando? Allora, o nel 2016 un meteorite avrà, diciamo, vaporizzato questo paese, oppure saremo stati conquistati e colonizzati da una razza aliena e ci cancelleranno la memoria, oppure credo che sarà un robusto problema, diciamo, no? Alla fine noi riusciremo a essere scuoiati e ci diranno, visto che la neolingua impera, così come c'è il divorzio breve, così come c'è la riduzione della pressione fiscale, così come c'è la famosa crescita, la derivata seconda, come sentivo prima il Premier che diceva stiamo decrescendo ma un po' meno, diciamo, che il passato, quindi stiamo calando meno degli anni scorsi, per cui tutto va bene, allora penso dobbiamo veramente attrezzarci. Nel 2015 il governo Renzi va all in e il paese va all in, nel senso o ricominciamo a crescere oppure dal 2016 conviene emigrare o cambiare pianeta. Sentiamo la voce più equilibrata rispetto a noi, siamo i cattivi. No, ma c'è una razio però in questo, ci pensi Mario, che è quella di dire, se qui c'è la deflazione, noi sostanzialmente minacciamo aumenti colossali nei prossimi 3 anni, almeno spendete adesso, certo, capite? È un modo intelligente politicamente, cioè, per bilanciare le attese deflattive. Tu lo sai che è una roba che si chiama in gergo tecnico, l'equivalenza ricardiana non ti dà ragione, perché il contribuente quando sa con certezza di avere a che fare un aumento di imposta a venire, tiene le mani in tasca, esatto. Come si vede sul sai neanche se le aumentano, quando parliamo di terrore fiscale non sai nulla, ti tengono nel buco nero come l'inquisizione spagnola, ti tirano vedo fuori. Vedo che fatichi a difenderli questa volta, vedo che fatichi a difenderli. Sentiamo come la pensa Antonello dalla provincia di Cuneo. Antonello, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque io volevo parlare sostanzialmente sul livello delle accise. Sì. Secondo me non è nient'altro che la dimostrazione che lo Stato cerca con questo aumento da gennaio di colmare un gap di cassa. Così. Dovuto al fatto che i politici pensavano che il consumo di benzina fosse incomprimibile, invece in questi ultimi anni, a partire da Monti specialmente, è diminuito appunto il consumo di benzina, quindi è diminuito l'introito di Stato delle... Allora Antonello, lei ci anticipa, infatti apposta l'ho utilizzato questa telefonata per visto, perché è il prossimo blocco, perché adesso andiamo in pausa e poi torniamo con il prossimo blocco esattamente su questo. Della belva. Eccoci qui, tornati in studio e stiamo parlando, dopo aver iniziato i divorzi, però stiamo parlando di una serie di blocchetti del tema del terrore fiscale. E infatti l'ultima telefonata ha aggiunto alle clausole di salvaguardia dei 30 miliardi al 2018, di cui abbiamo brevemente discusso, ma davvero servono a incitarvi a consumare di più prima che arrivino questi aumenti? Bah! Secondo me è da un'idea di quanto questo governo ha fatto l'all-in, come dice Mario, cioè ha rinviato il tutto puntando tutto su dopo, poi si vedrà se si va a votare oppure meno. Intanto volevo dirvi, per chi di voi ha accesso a un computer del sito del Messaggero, oppure se siete a Roma, Messaggero di oggi, pagina 12, in tutti questi chiari di luna, con tutte queste robe, che l'incertezza che stiamo dando ai professionisti, alle imprese, eccetera, eccetera, su quante tasse paghiamo, non ci dimentichiamo la local tax che è in arrivo, e di questo ci occuperemo un altro sabato. Local tax, il testo del governo che stanno scrivendo, in imposta prima casa, aliquota prima casa rispetto attuale TASI 2,5 per 1000 più 0,3 per 1000 per quei comuni che facevano le detrazioni, questa è aliquota prima casa TASI 2014, nella local tax si passa all'aliquota del 5 per 1000, a peso mio 2,5 per 1000 rispetto a 5 per 1000, capite che è un raddoppio, ma attenzione, vi diranno che ve la stanno abbassando, perché in teoria dal 1 gennaio dell'anno prossimo diventava dal 2,5 per 1000 fino al 6 per 1000, riusciranno a raddoppiarvela e vi diranno che ve la stanno abbassando, che è un altro di questi bei criteri di questo governo. Scusa Carlo Alberto. Sì, è un governo che lavora sulla neolingua, no? Lavora sulla programmazione orwelliana. Orwelliano. Allora, l'ultima telefonata ci ha consegnato il tema, perché tra le tante cose, questa volta da gennaio in legge di stabilità c'è l'aumento dell'accisa sui carburanti. Carburanti, prezzo. Giugno scorso era $114-116 a seconda del WTI o del Brent, delle diverse tipologie, adesso sta $77-74, quindi è sceso del 30%. Si è iniziato a vedere nel tempo un po' di diminuzione del prezzo, al consumo dei diversi carburanti. Lo Stato aumenta ancora la sua bella accisa per 2,4 miliardi. Vi ricordo che nel 1936, quando c'era la legge, la guerra, quella con cui fece il ridicolo impero Mussolini, gli italiani cantavano, perché già allora lo Stato si prendeva i soldi da dove poteva, cioè direttamente dalla benzina, gli italiani cantavano "faccetta nera, bella abissina, ci hai fatto arrivare la benzina a eccetera eccetera", cioè questo è, già all'epoca funzionava così, a 3,90 la benzina, questa era la maniera degli italiani. Che pensate di questa cosa? Carlo Alberto, dici tu. A me piace ricordare cosa sta succedendo in America, sarà che la mia testa ragiona più al di là che al di qua dell'Atlantico. In America la riduzione del prezzo della benzina comporta l'equivalente di un taglio fiscale, questa volta sì, vero, certo, di 80 miliardi di dollari, l'80 ritorna, ma stavolta sono tagli veri e sono soldi nelle tasche dei consumatori americani, che probabilmente se li spenderanno in parafernaria tecnologiche e come sanno fare di par loro. La verità è che da noi il taglio strutturale, e questa volta è uno shock sul lato dell'offerta, perché i sauditi hanno deciso di uccidere lo shale gas americano e sostanzialmente stanno tagliando fuori tutti i produttori, lo shock sul lato dell'offerta, invece che tradursi in soldi in tasca agli italiani, si traduce in un'opportunità splendida per il nostro governo di occupare lo spazio liberato dal prezzo del petrolio che scende con un po' più di accise. Questo è quanto, signori. Quindi non mi vengono a dire che vogliono incentivare i consumi. Altrove i soldi del lato offerta vengono effettivamente lasciati nelle tasche dei consumatori e decidano loro. Qui il governo si infila in questi spazi perché vuole succhiare il sangue dalla benzina. Ricordiamo che rispetto al prezzo alla pompa che voi pagate per carburante, diciamo benzina, insomma, diciamo, il prezzo industriale vale il 38% del prezzo che pagate, perché poi le componenti fiscali, cioè l'IVA che è al 22% più l'accisa, tenete conto che noi paghiamo anche l'IVA sull'accisa, ecco, quella roba lì vale il 62% attualmente del prezzo alla pompa. Voi capite bene che allo Stato, quando il prezzo scende per via della componente industriale e inizia a scendere, sia pure con la componente industriale che pesa così poco sul totale del prezzo alla pompa, ma quando le diminuzioni di prezzo del combustibile per le ragioni internazionali diventano tanto rilevanti che scende il prezzo davvero, cacchio, lo Stato dice si crea un buco nei conti pubblici. Ma è lo stesso discorso del calo storico del consumo di tabacchi, no? Visto che la gente fuma di meno, tendenzialmente il gettito complessivo cala, e allora ci si inventa la rimodulazione, la ridefinizione della struttura delle accise sui tabacchi per riuscire a sostenere il gettito, perché deve essere rigido. Combatte contro la deflazione, assolutamente. Sì, infatti dovremmo essere contenti. Altro che Riccardo, venite a darmi ragione, lo Stato è il grande alfiere della lotta contro la deflazione, credo, come aumenta i prezzi lui, esatto, compensa la diminuzione del prezzo della materia prima con un po' più di tasse su via, quello che sia. Sono i famosi 100 euro chiampariniani, no? Ho capito, esatto. Anche qua qualche caffè, quanti caffè sono? Poveri bar. Esatto. Vabbè, comunque io mi auguro che anche qui non ci siano proteste come quelle di prima, perché siete con te, volete pagare di più, anche se pagate di più, per me guardate, a me basterebbe una cosa, io vorrei che foste tutti così felici di pagare e sostenere questi bei governi, però vi beccate le tasse in proporzione. Cioè, la mia idea è: votate i governi pro tempore, prima di destra, adesso di sinistra, che vi aumentano le tasse, voi siete felici, però pagate in proporzione anche le mie. Questa sarebbe la mia idea. Cioè, la responsabilità elettorale, ciascuno paga per quello che non ha voluto comprare o ha voluto comprare. Che ne dici? Ma io sono favorevole a una repubblica della rappresentanza fiscale proporzionale. Per me, chi deve votare per l'approvazione del budget di bilancio vota in base agli euro pagati di tasse. Le leggi generali non di spesa sono one man, one vote. Le leggi di spesa di welfare sono one euro, one vote. Aia. Sei diventato sono rimasto roba... liberale da bambino, mangiavo pane e marmellata liberale. Liberale dal 1831 alla francese. No, sono un liberale digitale, te la dico tutta, quindi sono favorevole alla piena trasparenza. Va bene. Allora, però facciamo un secondo punto, quindi un addetto ai lavori tecnici, per così dire. Nel senso che questo tipo di nuova misura sulla casa molto tassata, l'auto è il secondo bene su cui lo Stato piglia subito dove può. Allora abbiamo con noi Antonio Cernicchiaro, che è il vice direttore generale dell'UNRAE, per capire che cosa le case automobilistiche si aspettano come effetto. C'erano i primi segnali di ripresa sul mercato italiano. Buona giornata innanzitutto, e grazie di essere con noi Antonio Cernicchiaro. Che vi aspettate? Buongiorno a tutti. Ma noi ci aspettiamo ormai veramente poco e niente, guardi, le vostre considerazioni e osservazioni, noi siamo quasi rassegnati, nel senso che questo ennesimo aumento, questo ennesimo balzello che gli automobilisti italiani saranno costretti a pagare dal primo gennaio, come lei ha ricordato, si aggiunge a una lista nera ormai francamente senza precedenti. Gli ultimi governi, partendo dall'ultimo Berlusconi e poi anche quello dei professori, diciamo così, e poi Letta e adesso anche Renzi, non hanno finora manifestato alcun interesse specifico su questo settore, che secondo gli esperti è stato da sempre un po' considerato trainante, un volano per l'economia italiana, e invece è soltanto in questo momento, in questi ultimi anni, una terra di prelievi. Non voglio ricordare il passaggio della trasformazione dell'IPT, questa imposta di trascrizione che si paga all'acquisto dei veicoli anche sui passaggi di proprietà, che da misura fissa è stata trasformata tutta in variabile. Poi l'aumento della riduzione della deducibilità delle auto aziendali, che sono già al minimo rispetto a quelle che sono le tassazioni dovute negli altri paesi europei, e l'hanno ulteriormente ridotta prima con la legge Fornero e poi con un'altra finanziaria. Siamo ormai al 20% di un tetto di 18.000 euro, che è una cosa ridicola rispetto agli altri paesi, dove si può dedurre il 100% del 100% del costo del veicolo. Quindi lo siamo abituati ormai a vedere, lei ha citato già la guerra di Libia del 36, dove è cominciata questa ridicola, perlomeno dal punto di vista strutturale, nel senso che le accise sono per la natura tasse di scopo, quindi dovrebbero avere un carattere di eccezionalità, di temporaneità. In effetti non c'è niente di più permanente di ciò che viene annunciato come temporaneo nella struttura delle entrate. Questo riguarda la struttura delle entrate, però, perché le altre strutture della nostra spesa non ci sono. A questo punto noi volevamo proporvi, perché voi avete trovato qualche traccia sul giornale di una dichiarazione di Putin di ieri, che si riferisce, avete trovato solo un riferimento alla Merkel, però non è vero, perché il resto della dichiarazione di Putin, che è agenzia TASS prima del G20 di Brisbane, in cui arriva oggi, vale la pena di sentirlo. Non ho notato un calo di simpatia della cancelliera Merkel nei miei confronti. Come tutti sanno, quel che ci guida sono gli interessi e non la simpatia o l'antipatia. Anche perché voglio ricordare che 300.000 tedeschi hanno il posto di lavoro assicurato grazie alla Russia. Non so se mi sono spiegato. Quanto alle sanzioni contro la Russia per la vicenda ucraina, sono illegali. Anche agli italiani e a Matteo Renzi ho una cosa da dire. Ma chi ve lo fa fare di perdere export pregiato verso la Russia, quando in cambio vedrete diminuire i ricchi russi che sostengono il vostro turismo e la vostra moda? Mi dicono che Renzi abbia problemi nel suo partito, nella sua maggioranza, con i sindacati. dovrebbe considerare una cosa. Se l'Italia leva le sanzioni alla Russia, ne guadagnano le nostre economie. Ma mi impegno anche a insegnare a lui come fare, con chi manca di rispetto e credere di potersi mettere per traverso alle riforme. Sono sicuro che D'Alema sarebbe d'accordo. Ecco, no, questa, no, vi hanno tenuto all'oscuro che c'era anche un passaggio relativo a come si mettono a posto i dissidenti. Adesso io non voglio fare battute su questa Italia bloccata di proteste, però posso chiedere a Mario e a Carlo Alberto in realtà come pensano, è cambiata l'atmosfera, queste piazze così dure rispetto al governo e alle sue attese che portava tutto a casa, secondo Mario le piazze dure di quest'ultima settimana cambiano o no le cose? Non credo. Io non credo, sono sicuramente molto dure, rumorose, però l'impressione è che tendano a marginalizzarsi rispetto al grosso del corpo elettorale. Io ho come l'impressione che ancora non abbiamo preso coscienza e consapevolezza di un certo tipo di situazione e di conseguenza queste manifestazioni tendono ad essere viste come una sorta di rivendicazione particolare da parte di soggetti che vengono considerati a torto privilegiati, no? Del tipo, ma tu sei il metalmeccanico che comunque è assunto a tempo indeterminato, che ha tutte le coperture articolo 18, guarda il resto del paese dove la maggioranza sono precari o in via di precarizzazione. Io come questa percezione, c'è un grosso corpo centrista in questo paese, corpaccione centrista, che non vuol dire liberale però, perché è cosa completamente differente, che tende a marginalizzare questi tipi di manifestazioni. Non hanno più l'impatto che avevano anni addietro, no? Quando bastava una manifestazione della CGIL per destabilizzare un governo di qualunque colore fosse. Oh no, ho capito il tuo ragionamento, anche per te è così, caro Alberto. Ma secondo me consolida invece un certo consenso legge e ordine intorno a un renzismo avuto invece una storia un po' giovanilistica, no? E secondo me questo allarga il consenso di Renzi, sì, perché converge sul, fammi dire, sul cambiamento, ma anche sulla difesa dell'ordine costituzionale. Secondo me queste cose qua tutto, al governo non fanno neanche male. Non fanno neanche male. No, no, la paura della la borghesia impaurita, borghesia con delle toppe colorate sul lato B, però è comunque impaurita, quindi l'approccio di legge ordine può essere abbastanza affascinante, diciamo, nel breve termine. Perché è sposa unilateralmente provvedimenti prima che ce ne siano Oscar, i testi, è la caricatura di una borghesia, ecco. Come abbiamo avuto la caricatura di una destra, di una sinistra, di quant'altro in questo paese. Oggi, non è oggi, che... per esempio, oggi in prima pagina io mi trovo, per carità, gli autorevolissimi Giovazzi e Lesina che riprendono le parole. Che riprendono Padoan, fastidio più che le parole esatto. Però poi delle parole di Padoan che dicono la pressione fiscale diminuisce, non potrò più dire, come ho fatto questa settimana in televisione con questo Sotero Gozzi, guardate che nelle vostre tabelle c'è scritto che sia pur di poco sale, perché conterà quello che il giornale della borghesia italiana dice, cioè riconosce che la pressione fiscale sia pur di poco scende. Peccato che nelle tabelle però c'è scritto il contrario, nelle loro tabelle del governo. Tu sì, dici che comunque non cambia nella percezione di Renzi l'atmosfera, no? Ma diciamo, la capacità linguistica di questo governo però va sottolineata. Assolutamente. Sono bravissimi assolutamente a far capire quello che vogliono far capire. Scusate, sì, questo è importante. In politica la leadership è anche sapere far passare i messaggi, che poi siano quelli sbagliati con i contenuti distorsivi, lo siamo qua a ricordare. Però io, un governo che sa comunicare qui siamo alla programmazione neurolinguistica, siamo entrati in quell'ambito con questo governo e andiamo avanti proprio per i motivatori. Allora noi ringraziamo Antonio Cernicchiaro, pausa tra poco. Della belva. Eccoci qui tornati dopo questi blocchetti su ulteriore fiscale. Sentiamo rapidamente qualche ascoltatore, però è stato lì ad aspettare, bisogna che poi decidiamo dove li concentriamo questa telefonata, qui bisogna ancora rodarlo, ma comunque iniziamo con Giuseppe da Pesaro. Prego Giuseppe. Salve Oscar, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire su un aspetto riguardo alla trasmissione di prima delle 11, sì, rispetto alle aliquote, no? Sì. Io sono un lavoratore dipendente. Volevo ricordare una cosa: se l'obiettivo è pagare tutti per pagare di meno, no? Si è sempre sbandierato questo aspetto, perché non creare per tutti, sia dipendenti che per lavoratori autonomi, sì, dei scaglioni di aliquota IRPEF, ma che siano incentivanti? Mi spiego: adesso c'è il 23, il 27, poi si arriva al 38, poi si arriva al 41, al 45 e si crea quello che giustamente diceva prima il collega, un effetto distorsivo o il nero di Stato, perché ovviamente tutti cercheranno di stare sotto quelle soglie per non essere dissanguati. Perché non arrivare dopo il 27 o magari il 30, 31? È superata quella soglia, non si può abbassare, quindi premiare, a dire se tu dichiari 50.000 euro da lì in avanti, paghi il 20, cioè, e via. E così tutto l'imponibile si abbassa la quota spalmando e tutti saranno incentivati a pagare di più o a dichiarare di più e lo Stato si guadagnerebbe. E tutti, io dipendente stesso potrei avere un doppio lavoro, potrei lavorare di più e dichiararlo e fare gettito. Cioè, è sbagliato questa logica? O deve, no, io non ho capito bene come può funzionare il meccanismo premiale. Sentiamo Mario Simeone se ha capito. No, ma questa è una struttura di aliquote regressive, allora, per chiamarle col loro nome, nel senso che all'aumentare del reddito cala l'aliquota, se ho compreso correttamente. Esatto. Ma cala permanentemente o solo come premio incentivo a crescere per un po' e poi si torna alla progressività? Perché questo fa una differenza di fondo sul come funziona. Se nella sua proposta, poi, per premiare e incentivare è regressiva per sempre oppure è un premio alla crescita per un po'? Come, che dice? Giuseppe? Io? Sì. Ah no, cioè sì, allora, arrivare giustamente a dei guadagni, cioè io come dipendente, sì, se l'azienda mi deve dare un incentivo, ovviamente mi farà presente e mi dice guarda che per darti 100 euro a te mi devo pagare 150 io, diventa un problema. Allora, fino a un certo reddito, cioè 60.000 euro, 70.000 euro, può essere incentivante, dove tutti possono dichiarare tranquillamente e non avere problemi. Dopo è ovvio, per redditi superiori ai 100-150.000 euro si può stare con la contribuzione collettiva più alta, ma che non sia assassina. Cioè, l'obiettivo è tutti dobbiamo poter dichiarare di più senza la paura di dover essere dissanguati dallo Stato. E quindi, cioè, io voglio pagare. Guardi, io sono sincero, io, Giuseppe, guardi, io rispetto a come funziona la stratificazione dei redditi italiani, sia dipendenti, sì, che dipendenti, considererei, per esempio, che una delle cose più importanti da fare è modificare l'eccesso di progressività che c'è nello scalino tra l'aliquota tra il 27 e il 38%, che sta su quei 28.000 euro, che secondo me è una roba che indecente, sia la sinistra che la destra è indecente. Ecco, indecente. Quella roba lì a oggi ha un effetto pesantissimo. Ma scusa, perché non la modificano? Andiamo banalmente, bravo, e cinicamente, perché lì si concentra il grosso dei contribuenti e si crea reddito. Esatto. Perché come diceva l'immortale Ettore Petrolini, bisogna prendere i soldi dove sono tanti, cioè presso i poveri. Perché? Perché i poveri hanno poco, ma sono moltissimi. Esatto. E quindi, cioè, tutto si tiene, queste sono leggi eterne, diciamo. Sentiamo Giulio da Treviso. Giulio. Io volevo chiedere un parere. Sì. A me sembra che lo Stato alla fine le vere riforme non le faccia. Io faccio solo un punto. Io sento sempre lei e Barisoni parlare e citare le regioni a statuto speciale che hanno dei privilegi e degli scandali continui, ma non ho mai sentito il governo che metta una proposta per abolirle. Non hanno più Giulio, senso. Che questa non è che possiamo ripeterci, no, anzi, purtroppo la Corte Costituzionale la scorsa settimana, la Corte Costituzionale, rimanendo nell'ambito della Costituzione attuale, ha fatto anche decadere, quindi è cassato, il controllo preventivo di legittimità del commissario di governo sulle leggi dell'Assemblea regionale siciliana, quindi la Sicilia otterrà un altro livello ancora più elevato di autonomia speciale. E sono d'accordo con lei, Giulio, qui c'è poco da commentare, purtroppo le regioni di autonomia speciale fanno molti eletti, se va a vedere perché, per i partiti, la Sicilia, se lo ricorda quella famosa storia del 61-0 per Berlusconi, non proprio secondario nella storia del centrodestra italiano. Ecco, purtroppo questa roba qui conta e per questa ragione l'autonomia speciale non viene toccata. Ma adesso andiamo a un'altra delle nostre sessioni che tornano sempre, i famosi conti della serva. È una serva tua madre, eh? È una serva? Tua madre non serve. Questo è grande, Edoardo, in casa con Piello. Tua madre non serve, che naturalmente c'è, cioè, sia la lettura dei maschi deviati che dice, però era indirizzata al figlio che dice no, non ti deve venire a servire, però non serve. Allora, in questa puntatiella dei conti della serva, l'olio, il prezzo dell'olio, perché abbiamo chiesto a Edoardo Garibaldi di spiegarci un pochino, ma è vera questa storia che sale davvero il prezzo dell'olio d'oliva del 40%, come dicono, perché la mosca, che cosa succede? Ci puoi spiegare un pochino? Ha fatto tutto un approfondimento, quindi andiamo in pillole, ma come si forma il prezzo? Cosa è successo sul mercato italiano e internazionale? Davvero arriverà al 40%? E come si comporteranno i diversi anelli della catena, grande distribuzione eccetera, fino al consumatore finale? Che deve fare il consumatore finale? Intanto buongiorno agli ascoltatori e che il prezzo possa salire del 40% al consumo non è ancora detto. Non è ancora detto perché l'inizio della campagna olearia, il pieno sarà a dicembre. Poi il primo produttore mondiale, la Spagna, l'Italia è seconda per quanto sia il primo esportatore, si vedrà quindi successivamente. Come si forma il prezzo? Come si forma il prezzo sul mercato, stai dicendo, no? Sì, è ovvio che bisogna aspettare quindi la fine della raccolta in Italia. Bisogna aspettare la fine della raccolta in Italia, che avverrà a dicembre. Però noi abbiamo già dei prezzi indicatori, perché in questa settimana c'è stata un'altissima volatilità verso l'alto, che è quella che ha fatto scrivere i giornali. Ieri c'era una Repubblica che aveva le pagine piene. Sì, la Coldiretti dice che il prezzo si è innalzato del 40% nell'ultima settimana, ma esatto, dal 2 novembre, data tradizionale dell'inizio della raccolta, ad oggi, il prezzo è addirittura raddoppiato, più 100%. Questo però, date le quantità minime raccolte fino ad ora rispetto al totale, non è detto che il prezzo tenga questi livelli, tant'è vero molti intermediari, i cosiddetti broker di olio sfuso, che passano dai coltivatori, dai molitori, agli cosiddetti imbottigliatori, che fanno il 77% del mercato, stanno aspettando a comprare perché hanno paura che il prezzo non tenga. Che il prezzo non tenga. Però a questo punto, di fronte a una forbice, quindi è possibile che ci sia fino a un 40%, anche se non è detto. C'è una forte volatilità, noi siamo il paese che raccoglie più tardi rispetto agli altri, però è vero che mi pare di capire c'è un meccanismo di diminuzione del raccolto che riguarda anche grandi produttori come la Spagna, cioè c'è un fenomeno sul mercato internazionale. La Spagna l'anno scorso ha prodotto 1.800.000 tonnellate, quest'anno le previsioni sono di 1 milione o addirittura 800.000 tonnellate. Siamo nell'ambito quindi di riduzioni di volumi del 50% è superiore. Sì, è anche vero però che ci sono delle scorte per 500.000 tonnellate e l'olio ha una conservazione anche di 2 anni, soprattutto per il cosiddetto olio di miscela comunitaria, che dopo è quello che riesce a mantenere più basso. Allora, io ti avevo chiesto di appurare due cose per spiegarle a chi è a casa. Primo, c'è gente in Italia, cioè nel segmento elevato dell'olio d'oliva, quello dell'extravergine, sì, ovviamente i costi sono molto elevati in un paese come l'Italia. Spieghiamo un secondo che questo contribuisce al prezzo più elevato, perché a quel punto, se ci sono condizioni, la mosca, l'aria e così via, sì, per cui la resa è molto bassa, io neanche raccolgo a quel punto. Primo, è vero o non è vero? Secondo, la grande distribuzione, ma può davvero permettersi di proporre al consumatore finale aumenti di prezzo del 40-50%? Io ti ho chiesto di fare delle telefonate e vediamo che cosa ti hanno detto. Sì, è vero che molti industrie molitori, molti torni sono rimasti chiusi perché hanno delle strutture di costo molto, molto rigide e quindi sia l'andamento meteorologico ha abbassato fortemente la fioritura degli olivi e quindi il tonnellaggio prodotto su un ettaro è calato. Oltretutto la mosca olearia ha abbassato la qualità, quindi facciamo per dire 100 kg di olive, se prima erano 70 kg che potevano andare a olio extravergine perché rispettavano i parametri di acidità sotto lo 0,8%, adesso saranno sul 50-40% di questo ammontare iniziale. Che cosa fa la grande distribuzione? La grande distribuzione usa l'olio però come prodotto civetta, quindi molto spesso sono prodotti sotto costo d'acquisto degli stessi grandi distributori organizzati. Ci tengono sempre a indicare che il prodotto che loro propongono in vendita come olio extravergine d'oliva è il migliore da loro selezionato fra qualità e prezzo, quindi lo usano per richiamare la gente dentro. Quindi la grande distribuzione organizzata che abbiamo contattato cosa ci ha detto? Ci ha detto che c'è un andamento quasi, è ancora tranquilla la situazione e non ci saranno problemi di approvvigionamento. Problemi di approvvigionamento ci sono però già per gli oli tipici, come abbiamo detto, i cosiddetti oli boutique, quelli che fanno capo a piccoli frantoi, hanno dei prezzi molto molto elevati. Il dato tra l'altro della Toscana, per quanto sia previsionale, è allarmante perché in certe zone è caduta la produzione del 90%. Del 90%. Sì, soprattutto perché è stata colpita da una forte grandinata il 19 di settembre. Comunque sta di fatto, per andare al punto, perché noi poi qui dobbiamo essere precisi con chi ci ascolta. Noi abbiamo chiesto ad alcune protagoniste della distribuzione, Tom, Esselunga, correggimi se sbaglio, e Legacoop, sì, e da loro abbiamo avuto indicazioni, no, non bisogna dirle queste cose, bisogna dirle. Quando, mi dispiace, in questo caso io aderisco a questa tesi, secondo me quando c'è un allarme così forte di prezzo, chiedere da parte dei giornalisti è un dovere, però bisogna anche dire quando le risposte non arrivano. Questa è la mia idea, cioè noi non siamo in grado di dirvi che cosa vi aspetta davvero nella grande distribuzione. Quello che abbiamo siamo riusciti a capire però interloquendo con altri distributori è che il prezzo sicuramente sull'olio 100% italiano cambierà. Cambierà naturalmente a rialzo, e ci saranno forse per alcuni molitori ci sarà qualche difficoltà di approvvigionamento da aprile in poi, perché se in Spagna, che è il primo produttore mondiale, tutt'oggi si attesterà come primo produttore mondiale, ha 500.000 tonnellate di scorte, queste scorte prima o poi finirà l'olio miscelato comunitario, finirà l'olio italiano, che ricordiamo passerà secondo previsioni da 430.000 tonnellate della prodotte l'anno scorso a 300.000 tonnellate, e c'è chi dice addirittura 230.000. Quindi siamo anche lì in un ambito di riduzione tra un terzo e metà. Va bene, abbiamo strade, grazie Edoardo Garibaldi. Della belva. Ed eccoci tornati qui, siamo in finale di questa trasmissione, dai costi del divorzio con il nuovo procedimento, ai tanti segnali di terrore fiscale, a questa grande incertezza. Attenzione, il costo dell'olio, come troverete, sarà significativamente diverso rispetto al vostro bilancio familiare fino a ieri. E sapete che noi fin dall'inizio chiudiamo questo spazio con questa rubrica sul non si può fare, cioè tutti gli ostacoli di fronte ai quali si trovano i piccoli imprenditori italiani, ricordando il punto di vista che è quello ricordato qua da un grande attore. Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore, e non alziamo la voce. Ecco, e naturalmente finisce sempre così, che poi ti dicono ma quante ne vuoi, paga e stai zitto. Allora Renato, sei di nuovo con noi, Renato Cifarelli, grazie. Buongiorno ragazzi, scusate se oggi non vi ho ascoltato, ma sono qua a fare pili in fiera. Fai tu, bestiere, tenti di vendere, come vanno le cose tra l'altro? No, direi abbastanza bene, per fortuna. Raccontaci un po' delle tue ultime. Dobbiamo fare il PIL, perché qua questo è il mese delle tasse, sai che novembre è il mese in cui... Se non me ne parlare, perché lunedì io ho due IRPEF, lasciamo perdere, hai messo il dito nella piaga, vabbè. No, perché abbiamo l'anticipo, no? Quello che chiamano anticipo ed è oltre il 100%. Delle tasse che abbiamo pagato quest'anno con una fase di utili in calo. Avevamo però un piccolo aiuto alle aziende, che era quello della diminuzione del 10% dell'IRAP. E infatti tu dici l'imperfetto. Esatto. E uno dice, se non altro qualche cosa per una volta lo fanno. Peccato che naturalmente nella manovra che stanno studiando ce lo siamo persi per strada. Quindi questi ci dicono sempre, noi che facciamo questo mestiere, che non facciamo la pianificazione, ma in questo momento l'abbiamo fatta, la pianificazione, abbiamo davanti due o tre ipotesi, perché io lo volevo sapere da voi, cosa pagherò di IRAP. Però hai capito che non sappiamo neanche noi. Perché l'ho chiesto al commercialista, no? E il commercialista mi ha risposto testualmente: in teoria eliminata riduzione retroattivamente dal 2014. Quindi in teoria nessuna sanzione sembrerebbe per chi ha calcolato conti con vecchie regole. Esatto. Allora quel sembrerebbe lì lo dice dice tutto su quello che è il fisco in Italia. Perché dipende, perché... lo sai da cosa dipende, Renato? Dipende primo da se l'aula cambia idea, secondo non dimenticare, si passa per la circolare attuativa della struttura tecnica, che è la vera fonte legislativa dell'obbligo fiscale nel nostro paese. Quindi il tuo commercialista ti ha detto la verità. Naturalmente, caro Alberto, uno Stato che dice agli imprenditori vedete voi, perché io non vi dico quanto dovete pagare, vi chiedo un racconto in più, ma sul retrocesso mica ve lo dico quanto dovete pagare. È uno Stato ideale. È uno Stato che impone il nanismo e la impossibilità a programmare alle nostre imprese. Abbiamo visto prima con il regime sui minimi, si sta incentivando a rimanere piccoli, si sta incentivando a non dedurre le spese e quindi a non investire. Qui, con imprese che sono già mature, semplicemente si tiene nel terrore, nella impossibilità a pianificare. Questa è la cosa peggiore che puoi fare in un'economia in crisi, dove invece dovresti prendere decisioni importanti di investimento nella certezza del diritto e l'imposizione fiscale. Lo Stato fa l'esatto contrario. Il problema della crescita è la certezza del diritto fiscale. Noi abbiamo la violazione del principio della rappresentanza fiscale. A decidere sulle nostre tasse sono una banda di burocrati irresponsabili. Lo stanno facendo sul mattone, sugli imponibili d'impresa, sui redditi dei professionisti. Presto ci sarà una tassa sul disfattismo, credo. Noi parliamo noi raggiungeremo l'esproprio e quindi avremo riequilibrato anche il morale. Va bene, io ringrazio tutti i miei compari e vi do appuntamento ai conti della Belva sabato prossimo. Oh.